Ecco, io direi così, questa discussione continua anche domattina, poi dalle 10 in poi. Ecco, quindi stasera in qualche modo è un primo round, diciamo, in cui possono venire fuori tutte le osservazioni e anche semplicemente delle proposte di problemi, non, cioè proprio anche questioni, insomma. E da sviluppare poi domani in altri interventi, probabilmente più lunghi. Io lascerei il coordinamento della discussione al mio sinistro competente, io mi limito a far girare il microfono ambulante, prego soltanto prima di parlare di dire il nome perché siccome registriamo, dopo non spero che ci sia un accidente chi ha parlato, chi non ha parlato e chi deve mettere sul computer, è ancora in condizioni peggiori di quelle delle visite. Allora, come distributore passo subito la parola Mazzone, invito il professor Prodi a cedergli il microfono. Subito, così va bene. Mi chiamo Umberto Mazzone, questo per la registrazione e siamo a posto. E devo ammettere che intervengo non tanto sulle parti della discussione, della elaborazione dei dati, su cui magari si può tornare domani quando abbiamo un po' il quadro più completo anche delle altre esperienze. Ma tornerei brevemente sulla questione della fonte visita pastorale, per partire sostanzialmente da un errore mio, cioè da una mia, come dire, valutazione, tutto sommato, una mia sottovalutazione che oggi mi si è confermata, ma che già da tempo avevo. Cioè che quando noi ci mettemmo probabilmente la prima volta a immaginare questo formulario, sottovalutammo o prendemmo in considerazione solo fino a un certo punto l'importanza di un fatto che è stato sottolineato qui tutte le volte, da quasi tutti i relatori, ovvero la profonda diversità o la stretta relazione che intercorre tra il vescovo e quindi anche il suo condizionamento nel momento della visita e l'autorità politica. Il sistema politico dominante in quel preciso momento nel territorio diocesano. Mi spiego meglio. Credo che il formulario, così come l'abbiamo immaginato, ma penso che questo sia un errore di fondo, un rumore di fondo di tutti i possibili questionari, sia probabilmente quello di non mettere bene in evidenza la diversità di rapporto che intercorre tra il potere spirituale e il potere temporale, soprattutto in una realtà come quella italiana che è così frammentata, quantomeno appunto all'unità. Ora, io mi chiedo, quello che il rapporto tra il potere politico nell'età del Principato Tridentino ovviamente è diverso da quello dell'età carolina di Carlo V di Carlo Borromeo con la Spagna. Se noi andiamo alla ricerca per così dire, della modernità, del cambiamento, come diceva anche Prodi nella sua presentazione, della trasformazione, credo che il rapporto tra potere politico e autorità spirituale diventi fondamentale anche per capire il questionario del vescovo per capire la sua visita pastorale, perché probabilmente quello che è buono, per, cioè che viene qualificato come buono in una realtà di un certo tipo, assume un significato diverso, la stessa parola buono, in un'altra realtà dominata da un altro sistema politico. Faccio un piccolissimo esempio che Prodi conosce benissimo, che è maestro in questo, e la realtà della città di Bologna, dello Stato Pontificio e del rapporto legato vescovo o arcivescovo. Proprio in questo periodo mi sto occupando di una legazione tardo seicentesca che precede di poco, per puro caso, è una cosa puramente casuale, per puro caso una visita pastorale che io ho studiato, quella di Giacomo Boncompagni del 1690. Adesso stavo studiando questa legazione di Antonio Pignatelli che termina nel 1687, quindi 3 anni prima. Ora, devo ammettere che tutti i problemi che Prodi ha riscontrato col Paleotti e il governatore emergono sostanzialmente identici nelle loro linee di fondo anche oltre un secolo dopo, e il quadro che dà ad esempio Boncompagni nella sua visita è un quadro abbastanza idilliaco della situazione, cioè puramente per considerare un caso, il clero appare un clero tutto sommato diligente, assai poco litigioso. Però se uno va a verificare negli atti del legato, che aveva delle amplissime, lo ricordo per chi non conosca benissimo bene la realtà bolognese, aveva delle amplissime prerogative nel campo spirituale, vengo a trovare tutta una serie di grazie e di come dire, condoni, per usare una parola, di grazie, insomma, di pene in cui erano caduti religiosi per rissosità, bastonature e altre, che mi dà un quadro totalmente diverso del carattere del clero. Da un lato mi trovo un carattere del clero molto pio e ligio, dall'altro mi trovo i preti bastonatori che girano armati, che fanno i duelli, eccetera. Ora, quale delle due immagini è quella buona? E un'altra cosa. Visti gli amplissimi poteri di cui gode il cardinale legato nella realtà dello Stato Pontificio, in particolare nelle legazioni emiliane, ma forse anche Perugia, non lo so, nel caso di Perugia non lo so. Che validità fino in fondo si deve attribuire alla visita pastorale come atto autonomo del vescovo, mi chiarisco meglio, non condizionato dal conoscere l'esistenza di queste amplissime possibilità di intervento nel campo spirituale da parte del cardinale legato. Ecco, quindi, ecco, una realtà quindi quella bolognese, in questo caso, particolare, difficile e complessa, che credo appunto non possa essere ovviamente paragonata alla realtà del principale vescovile di Trento oppure della Lombardia, prima spagnola, poi austriaca. Quindi un discorso, credo che, e qui vorrei anche appunto accelerare, credo che vada ripresa non tanto nella formulazione del questionario, che probabilmente è difficile da modificare, ma nella introduzione e nella analisi generale metodologica del della proposta di schedatura delle visite pastorali, considerare l'incidenza che può avere nell'atteggiamento del vescovo visitatore il rapporto con il potere politico. Appunto, in presenza di questa inesistenza di un quadro omogeneo a livello di quello che oggi possiamo chiamare l'Italia. Un'ultimissima osservazione. Credo di condividere anche per l'età moderna l'osservazione che faceva la professoressa De Sandre sulla campagna e la città. Ad esempio, le osservazioni che io ponevo sul cardinale legato di Bologna mi sembrano valere molto di più per la Bologna città rispetto a Bologna contado, a Bologna campo. Cioè, mi pare che si possa dire che per la campagna la autorità del vescovo risulta chiaramente più libera, più stringente di quanto non potesse o non avvenisse nell'ambito direttamente urbano. Ecco, e per tornare, e qui concludo, quindi probabilmente in alcune realtà, non in tutte, ma in alcune realtà, per ritrovare o per determinare sino in fondo, che Prodi lo ha fatto benissimo fino adesso nei suoi lavori, la modernità o la trasformazione, ecco, dobbiamo essere consapevoli che la visita pastorale, a mio avviso, copre solo una parte di questo aspetto. Cioè, dobbiamo ritornare a porci la consapevolezza, non tanto il problema, perché il problema l'abbiamo già risolto, ma la consapevolezza dei limiti, delle risposte che può darci questa fonte. E, e su questo muoverci, cioè non attenderci più di quello che la fonte può dare. Ecco, io qui concluderei. Grazie Mazzone, credo che ci sarà prima o poi una risposta anche di Prodi, ma dopo. Sì, c'è Varzi che si è già prenotato. Adesso facciamo i giri, no, risposte, no, niente. Scusa. Anzi, non le daremo poi mai. Ah, d'accordo. Boaga. Allora, Emanuele Boaga. Nel mio intervento vorrei fare due osservazioni, una di natura informatica e un'altra una informazione archivistica. Per quanto riguarda le relazioni che ho sentito con molti, gli interventi che ho sentito con molto interesse, vedo che le esperienze in atto sono veramente esperienze che mi fanno venire in mente quel parto doloroso e gioioso insieme, no? Biblico, la natura che sta aspettando via di seguito. Però ho una perplessità, cioè vedo che dal punto di vista informatica nasce un problema nelle applicazioni fatte allo studio delle visite, ossia che un unico programma mi sembra non può, e questo è stato molto chiaro dalle relazioni, risolvere la questione. Forse con i sistemi di database si può gestire un certo tipo di informazioni sulle visite pastorali, però sui testi, in quanto tali, io suggerirei un programma che purtroppo non mi sta venendo in mente, che è adottato dall'Università di Toronto per l'edizione dei testi medievali. È un programma che permette la ricostruzione del testo critico, con tutte le varianti, che permette di gestire il testo dal punto di vista linguistico, quindi fare concordanze, e permette anche attraverso delle chiavi di lettura individuare tematiche lungo il testo. Adesso purtroppo non riesco a ricordarmi qual è questo tipo di programma, perché vedendo una delle esperienze sono rimasto un po' perplesso dalla complessità con cui si arriva poi a vedere le differenze del testo, e forse questo potrebbe, l'adozione di vari programmi secondo le finalità dello studio potrebbe essere direi, una soluzione in parte alle difficoltà trovate. La seconda informazione, che riguarda un po' più l'aspetto archivistico, e qui mi rifaccio alla proposta che il professor Prodi già ha annunciato, che sarà oggetto di discussione, penso, molto domani, vorrei osservare che nel lavoro che abbiamo fatto nell'Associazione Archivistica Ecclesiastica per gli archivi diocesani d'Italia, abbiamo già pubblicato un primo volume con 80 schede di archivi. Abbiamo in preparazione un secondo volume che vanno, secondo come riusciamo ad avere la collaborazione degli archivisti, da 75 a 90 schede. Poi avremo il problema delle altre schede rimanenti per complessivi 320 archivi diocesani, che sono molto di più delle attuali diocesi. Ci sono degli archivi diocesi soppressi che rimane l'archivio. Ora, osservando la condizione delle visite pastorali in questi archivi diocesani, si può dire che la situazione è molto buona in genere, salvo qualche caso particolare, ma in genere negli archivi diocesani, se c'è un po' di ordine, è proprio nella sezione delle visite pastorali, cioè è la sezione generalmente più curata, per cui questo già potrebbe agevolare un certo tipo di indagine. Poi la stragrande maggioranza delle visite, non posso quantificare, ma l'impressione che ho vedendo le varie schede d'archivio, diciamo almeno l'80-85% degli archivi sono dopo l'epoca di Trento. Quindi di conseguenza sono molto poche le diocesi che presentano visite precedenti, e in genere si tratta di diocesi molto antiche e che hanno già una tradizione archivistica precedente, come quella di Padova, che presenta dal 1422, quella di Pavia dal 1460, e anche abbiamo per esempio il caso di Catania, qua c'è Don Zito, dal secolo dal 400, dal secolo XV. Ora però c'è un problema: quante possono essere queste visite diocesane? Perché penso, se c'è un progetto di catalogazione e di gestire dati di informazione sulle visite pastorali italiane, è bene avere un'idea più o meno di quante sono. Nel nostro primo volume abbiamo classificato 5.612 unità archivistiche riguardanti le visite diocesane, escludendo in questo calcolo la diocesi di Milano, che ha pubblicato il suo inventario e registro delle visite in 4 volumi. 3 sono usciti, il 4 non so ancora se è uscito. No, non è ancora uscito. Non è ancora, ecco. Ora, queste 5.612 unità sono robuste, no, su 80 diocesi, è un calcolo su 80 diocesi, sono robuste, ma generalmente sono volumi. E quindi, guardando attentamente, poi si vede che generalmente ogni diocesi ha circa 35-40 visite dall'epoca, dal Concilio di Trento ad oggi. E quindi si può dire che queste 5.612 unità si suddividono in circa 2.800 visite. Ora, se le diocesi che noi possiamo registrare, perché hanno ancora un archivio esistente, le 320 diocesi che noi abbiamo censito nel 1985, gli archivi diocesani, avremmo praticamente... No, sì... 23.000. Questo per avere una idea. Allora, volendo fare un calcolo molto basso, se ci mettiamo 500.000 a visita per la computerizzazione, avete l'idea del costo di un progetto. Ecco, questo tanto per dare una piccola... distribuito in tanti anni. Sono 2.800 visite circa, no 28.000, 2.800 visite, quindi circa tutta Italia si può prevedere un totale di 9.000 visite. Adesso c'è anche un altro problema che risulta dalla visione delle schede archivistiche, cioè non sempre le visite pastorali si trovano in una sezione apposita, quasi tutte le diocesi hanno la sezione visite pastorali. Alcune volte le visite pastorali sono unite con le visite ad elimina, con le visite apostolica o col materiale che riguarda il vescovo, questo, ma generalmente hanno la loro sezione apposita. Però in alcune diocesi, e per fortuna sono poche, il materiale è distribuito secondo le parrocchie. Quindi questo sarà, in questo primo volume sono tre diocesi che hanno questa situazione. Quindi, poi abbiamo un altro problema. All'interno della sezione delle visite pastorali o si ha un ordinamento cronologico per anno, quindi i volumi si dividono per anni, e allora occorre stabilire se una visita dura più anni o meno, o anche possono esserci unità archivistiche che comprendono tutta la visita pluriannale. Quindi questo credo che è un dato da tenere presente nell'eventuale questionario. Oltre questo vorrei dire che la quantificazione quindi di queste visite mostra che una operazione di classificazione e di informazione dati sulle visite pastorali non può scendere in molti dettagli, deve a mio giudizio rimanere su uno schema che sia fattibile come fonte di informazione per gli studiosi e poi agevolare l'accesso alle fonti. Grazie. Grazie a Boaga. Ci sono due interventi prenotati, tre interventi prenotati. Allora, Varzi, poi Montanari e quindi Toscani. Sì, io posso fermarmi quando volete, perché in realtà quello che mi propongo di fare è di abbozzare alcune considerazioni che mi sono venute in mente, diciamo così, in tempo reale, ascoltando un po' quello che si diceva. Anche perché, devo dire, mi sembra un bel esempio di come, tra l'altro ben chiarito dal titolo di queste giornate di studio, che è una congiunzione tra due termini che in qualche modo si... come si può dire, influenza una vicenda, un buon esempio di come quando ci si mette a lavorare col computer ci si accorge in realtà di tutta una serie di problemi concettuali che sono del tutto indipendenti dal fatto che abbiamo preso questa drammatica decisione di imparare a usare una tastiera. Voglio dire, si è parlato oggi sì delle difficoltà che ci sono nell'individuare il programma giusto, ma anche e forse soprattutto, perché questo sta un po' a monte di quello che è stato detto, della difficoltà di stilare il questionario giusto, la griglia che effettivamente serva per poi utilizzare correttamente i dati e le informazioni che vengono raccolte. Quindi io vorrei fare due considerazioni brevi di carattere metodologico, anche se generalmente parlare di metodologia significa distinguere di problemi a monte e a valle, mentre in questo caso mi pare di essere in presenza di una regione montuosa con tanti monti e tante valli, per cui si fa un po' fatica. E vorrei tra l'altro precisare che non sono purtroppo un esperto, non sono affatto un informatico, come erroneamente il professor Prodi mi ha presentato, anzi sono un filosofo, per cui io stesso in qualche modo sì, mi occupo di logica e lavoro in un istituto che opera nel settore dell'intelligenza artificiale, che probabilmente conoscete secondo la definizione settore di frontiera dell'informatico o qualcosa del genere. Però dicevo, come filosofo mi sono in qualche modo nel mio piccolo trovato ad affrontare problemi simili quando ho preso la drastica decisione di utilizzare anche il computer. La prima cosa che vorrei dire è proprio legata a, diciamo, a quello che si potrebbe definire un po' il trade-off tra qualità e quantità, tra analisi quantitativa e quantitativa di cui si è parlato, che in qualche modo è, come si può dire, il criterio che taluni utilizzano per distinguere fra informatica e, per appunto, intelligenza artificiale. Vorrei fare un esempio per evitare di perdere troppo tempo su questo, che però spero riesca a chiarire quello che secondo me è importante tenere in considerazione. Immagino che tutti quelli che hanno cominciato a utilizzare un programma di videoscrittura hanno provato enorme soddisfazione nel notare che, oltre ai caratteri e al fatto che c'è la memoria, che si può cancellare e scrivere sopra e riaprire un file, eccetera, eccetera, Tipicamente un programma di videoscrittura contiene anche un correttore ortografico. Grande gioia, perché naturalmente questo consente di risolvere alcuni dei problemi che generalmente derivano da dei refusi. Però in realtà, dopo questo entusiasmo iniziale, è subentrato un terribile senso di disappunto quando ci si è accorti che, accidenti, la correzione ortografica non è intelligente, perché se io scrivo, non lo so, faccio un esempio rubandolo da un mio collega, se io scrivo il gane abbaia, lancio il correttore ortografico, scopre subito che gane non è una parola del vocabolario, me lo segnala, lo individuo e lo correggo. Perfetto, questo funziona. Se però io, anziché scrivere il gane, me li sono segnati, avessi scritto il rane, no, prima facciamo un altro esempio, il rane abbaia, il correttore me l'avrebbe trovato, perché è una parola di vocabolario. Quindi mi servirebbe un correttore più intelligente, un correttore che è in grado di capire rane non va bene perché è plurale e quindi è sintatticamente malformata la frase. Quindi dovrei dargli un po' più di diciamo capacità sintattiche, non solamente lessicali. Però anche questo non basta, perché se io scrivo il pane abbaia, questa è una parola singolare, perfettamente corretta, quindi la frase è sintatticamente ben formata, eppure non funziona, perché gli manca l'intelligenza semantica, diciamo così. E si potrebbe andare avanti, naturalmente, poi ci sono dei contesti in cui invece il pane abbaia potrebbe avere un significato, diciamo così, pragmatico, perfettamente corretto, che ne so, immaginiamo una situazione di un cartone animato, cose di questo tipo. Quindi, per fare in modo che il mio computer, il mio correttore, individui gli errori, devo in realtà dotarlo non solo di dati, di informazioni, di un vocabolario, di un database, ma di una conoscenza del linguaggio, in questo caso, e più in generale di una conoscenza del mondo. Ora, mi pare che questo sia un po' il problema che ci troviamo sempre ad affrontare quando noi ci proponiamo di utilizzare un sistema artificiale affinché ci dia una mano, in qualche modo, a tenere sotto controllo una grossa quantità di informazioni che noi stiamo raccogliendo. Voglio dire, il problema è quello di avere un sistema che sia in grado di gestire conoscenze e non soltanto informazioni, non soltanto dati. Si sono dette diverse cose a questo proposito oggi. Io non so se leggo tra le righe in maniera erronea, però quando per esempio il professor Prodi parlava del fatto che la gente cambia col tempo, è chiaro che questo apre la strada a una serie di difficoltà, per esempio di tipo squisitamente legato al vocabolario. Magari in un certo periodo si usano dei termini, in un altro periodo se ne usano degli altri. Quindi il sistema che io in qualche modo utilizzo per gestire questi dati deve essere in grado di cogliere queste connessioni semantiche e non lessicali. Ci sono fatti altri esempi, se non vorrei dilungarmi troppo su questo, però quello che voglio dire è che mi pare di poter affermare, limitandomi per adesso a questo livello puramente metodologico e forse poco utile sul piano pratico, che la difficoltà principale consiste nel, non tanto nell'individuare il programmino che mi consente di gestire bene i dati, quanto nel, come si può dire, riuscire a individuare il giusto livello di combinazione tra gestione nel senso di computazione, produrre una bella tabellina che evidenzi, tra l'altro, come nell'esempio che abbiamo visto precedentemente, la tavola 5 del professor Turchini. È molto carina, perché è vero, qui è venuta fuori una differenza imprevista, ma questo forse è il dato più interessante. Ci siamo accorti come questo errore che il computer, facendo una tabellina, evidenzia in maniera molto chiara, noi lo potremmo commettere quotidianamente nella nostra attività, eppure non ce ne accorgiamo. Quindi c'è un livello, diciamo, gli errori sono molto utili quando si vedono, e da questo punto di vista un computer ci può aiutare a farli vedere bene. Però, dicevo, accanto a questo c'è tutta la parte legata più alla conoscenza, quindi alla capacità di muoversi in questa enorme quantità di informazioni in maniera, diciamo così, esperta. Sostanzialmente vogliamo, o si vuole, uno storico automatico che abbia questa grossa memoria e si muova con molta velocità all'interno di questa memoria, e che sia molto flessibile, che sappia per esempio che quando io cerco una cosa sono interessato a trovarle anche le connessioni con aspetti diversi e così via. Quindi questa, come si può dire, questo trade-off tra, da una parte, la flessibilità che chiediamo al sistema, è una cosa che la dottoressa Nubli mi pare avesse centrato molto bene, trade-off da una parte tra la necessità di avere un sistema molto flessibile, molto elastico, molto intelligente, diciamo pure, però questo significa anche molto generale, e dall'altra invece dei programmi che soddisfino delle esigenze molto specifiche e che quindi sono ad hoc e in quanto ad hoc non sono generali. E questo vuol dire che nel momento in cui mi accorgo che c'è una voce che non avevo considerato, non avevo messo nella mia griglia concettuale, non riesco a utilizzare il programma in maniera soddisfacente, devo in qualche modo, come si può dire, schiacciarla in una casellina, anche se in realtà non sono del tutto convinto che quello sia al suo posto, e quindi successivamente non sarò in grado di utilizzare questa informazione nel modo corretto. Così. Questo è un po', mi pare di dire, il problema principale che ne emerge. Ora, tutto questo come considerazione generale, voglio dire anche, mi fermo qui, magari poi ne riparliamo ancora, che tuttavia non sono del tutto pessimista rispetto alla possibilità di risolvere questi problemi, soprattutto quando si fanno progetti a lungo termine, come mi pare di aver capito, e non del tutto utopici, ma comunque ci sono grossi risultati, magari non prodotti industriali, prodotti commerciali, non programmi. I programmi tra l'altro hanno sempre dei bei nomi, questo STAIRS di cui si parlava ha un bellissimo acronimo, perché uno poi si dimentica il significato e si ricorda solo la parola, e fa un po' pensare al computer come strumento e non come come si può dire, persona che prende il posto nostro, perché mi viene in mente una famosa e abusatissima citazione da Wittgenstein, che le scale si usano per salire e poi si buttano via. Questo è un classico esempio di un programma STAIRS che ci dà una scala da utilizzare per salire, e poi però bisogna avere il coraggio di in qualche modo abbandonarla e andare avanti, perché altrimenti si rimane, diciamo così, vincolati in questo. Comunque, scusate questa piccola parentesi, dicevo, ci sono dei grossi, secondo me, risultati già più sul piano della ricerca che su quello commerciale, che a mio avviso consentono di essere abbastanza ottimisti rispetto alla possibilità di avere una interrogazione con un sistema che sia flessibile e in qualche modo, diciamo, intelligente. Tra l'altro mi pare un altro aspetto che sarebbe molto interessante verificare, anche se ho l'impressione che sia sul piano pratico molto, molto difficile, è quello di in qualche modo creare degli archivi elettronici memorizzando tutti questi documenti. Mi rendo conto che quando si parla di migliaia e migliaia di pagine può diventare impensabile, però ci sono ormai dei riconoscitori, innanzitutto degli scanner che consentono di memorizzarli come immagini, e questo in qualche modo sarebbe forse un po' più funzionale di un microfilm, perché sarebbe comunque collegato all'opera, diciamo, del laboratore. E se si pazienta qualche anno, presumo che diciamo, la ricerca nel campo del riconoscimento automatico dei caratteri manoscritti, anche corsivi, potrà dare degli strumenti molto utili in questo senso. Questo significa che uno non dovrebbe continuare a digitare tutto il testo, ma basterebbe in qualche modo fotocopiare elettronicamente, e poi si avrebbe a disposizione del materiale, cioè il testo originale, editabile, quindi con possibilità di accesso e di elaborazione molto molto funzionale. Naturalmente, dicevo, su questo mi pare la tecnologia sia ancora un po' indietro, perché il corsivo è chiaramente una delle cose più difficili da riconoscere, facciamo fatica noi stessi, per cui possiamo immaginare le macchine. Però io penso che in un progetto di ampio respiro come questo non sia da buttare via l'ipotesi di eventualmente come si può dire, spingere in questa direzione. Vabbè, mi fermo qui, magari poi avrò qualcos'altro da dire domani sulla base di altri stimoli. Grazie. E Montanari. Questo mi pare proprio una premessa anche altre, sì, cose. Sono Daniele Montanari. Mi rendo conto che sono le 7 e ho avuto l'ordine tassativo dal dottor Ghezzi di essere estremamente stringato. Direi, faccio un flash che poi riprenderò magari domani. Mi pare che si sovrappongono due ordini di discussione paralleli, sebbene non convergenti. Una è la problematica relativa all'analisi o pubblicazione di una fonte, quale può essere una visita pastorale o una visita apostolica. Due, il mettersi a pensare invece alla catalogazione delle visite pastorali di una diocesi o di una regione geografica moderna. Riprendo qui le preoccupazioni che emergevano dalla quantificazione numerica del professor Boaga. Poiché io appartengo al cenacolo iniziatico che ha elaborato una parte quantomeno dell'utopia, e poi ho collaborato alla ripulitura in seconda istanza del questionario, mi sono poi reso conto che se stavamo lì a tavolino ogni sei mesi a ripensarci, quel questionario sarebbe stato un in progress praticamente ininterrotto per decenni. Allora ho rischiato l'azzardo, e l'ho rischiato nel senso che non in prima persona ma attraverso una laureanda l'ho lanciata direttamente sul campo, perché credo che si impari a nuotare soltanto entrando nell'acqua, per vedere fisiologicamente i tempi necessari per un lavoro di questo genere. Allora, diocesi di Brescia, su cui nella seconda edizione compaiono già quattro schede di quattro visite pastorali, per ora siamo arrivati a 14, siamo, uso il plurale perché lei lavora manualmente, io un giorno sì e l'altro pure sono più o meno là dietro a dire no, tirare a destra e girare a sinistra, perché credo che se mai l'utopia metterà le gambe sarà soprattutto, più che, se mi consentite, più che un problema di computerizzazione, sarà un problema di carattere organizzativo: chi lavora, per quanto tempo, come e dove. Allora, la ragazza, oh no, ormai signora, perché in mezzo si è anche sposata, la sta... non è una battuta di colore, è che sono riuscito a catturarla su un progetto di questo genere, di una iniziale aridità che ha dello stravolgente, soltanto a condizione di assecondare tutte le sue più o meno grandi bizze, compresa quella matrimoniale, se bizza può essere intesa, nel senso che questa lavora ormai da 2 anni e siamo arrivati a catalogare 14 visite per una pezzatura di, le contavo, 90 cartelle da 2400 battute l'una. Ora, l'interesse alla fine nella lettura è veramente notevole, però credo che a livello molto, molto pratico, da cenacoli più o meno allargati, bisognerà identificare il materiale umano attraverso cui o con cui lavorare e le modalità per attingere a questo materiale. Perché comunico in anteprima che questo tipo di risultato, che pure è biennale, è fattibile soltanto grazie ad un incrocio semiastrale che porta ad un rapporto molto intimamente amicale fra me e l'archivista vescovile, che entrambi siamo spesso l'uno a cena a casa dell'altro, e la laureanda, che non è a cena da nessuno dei due, ma è un po' conosciuta dall'archivista, il quale la lascia a dire direttamente il materiale, cioè non è uno studioso qualsiasi che può fare un discorso di questo genere, ma è un introdotto o un amico degli introdotti, perché deve lavorare su blocchi di materiale tali per cui non si può arrivare alla quantificazione dei tempi 3 ore, 2 ore, cioè lì si tratta di chiuderlo dentro in archivio o di dargli il materiale a casa in fotocopia. Qui sono state fatte cose sul filo dello scandaloso, tipo fotocopiare per esempio in questi volumi, vista che è scandita per volumi a Brescia, le prime 100 pagine, decodificarle integralmente e poi analizzare per campione gli altri volumi per vedere se il dato di base quagliava. Ecco, tutto questo per chiarire come i tempi saranno, non dico geologici, ma sicuramente lunghi, però sono convinto che credendoci e volendola fare l'utopia possa mettere le gambe. 5. È importante proprio questo concetto di divisione tra la catalogazione e l'analisi delle visite. Io ho fatto 3 piani, catalogazione, analisi delle visite e anche studi esemplari, invece per andare ancora più, cioè, a fondo, ecco, prendere tutto assieme ci serve solo da spararsi. Senio Toscani, no? Montanari ha detto quasi tutto quello che avrei voluto dire io, quindi sarò brevissimo. E tra l'altro, siccome quello che resta, oltre a ciò che Montanari ha detto, riguarda la discussione del questionario, penso che sia bene poi spostarlo a domani. Ma in sostanza, effettivamente, mi preoccupavo di vedere che ci sono 2 piani almeno, no? Quello della creazione di strumenti per analizzare bene e utilizzare bene una visita locale, che è quello che oggi ha preso lo spazio maggiore, e invece l'altro piano, creare le informazioni che gli studiosi possono utilizzare per andare a cercare poi le visite che loro servono. Cioè informare sulle informazioni che le visite danno, e questo è l'altro piano, riguarda invece il questionario. E solo per dire in 30 secondi, anticipare alcune cose che mi sembra metta conto di discutere invece in un altro momento, domani discutendo il questionario, prendo spunto da quanto oggi è stato detto. Per esempio la professoressa De Sandre diceva che in una visita veneta del 400 ci sono domande di grandissimo interesse sulla cultura teologica del clero, addirittura si arriva a particolari di grande interesse per la qualità, ecco, di questo. Ora il nostro questionario qui al... Sì, ma si fanno domande, d'accordo, estrapolato, ma però si fanno domande di quel tipo. Se non sbaglio, anche in una visita tortonese qui che il dottor Paoletti sta studiando, ci sono cose analoghe. Ecco, quindi credo per esempio che qui nel nostro punto del questionario 8.2, con i punti successivi, questo aspetto non compaia, perché si chiedono qualità intellettuali, curriculum studiorum, biblioteca, tendenze dottrinali, zelo pastorale, moralità. Ecco, io mi chiedo se non si possa discutere poi il questionario, eventualmente lasciarlo così, ma aggiungere una specie di settore in bianco in cui cose particolari ma di grande interesse possano essere segnalate, una specie di campo finale osservazioni. Ecco. Anche perché può anche darsi che certe cose di grande interesse come quello compaiano in una visita su 1000 del 400. Allora che senso ha creare un campo che poi verrebbe riempito una volta su 1000 e 999 volte no? Ecco, potremmo creare una specie di campo bianco in cui riversare queste osservazioni particolari per cose di grande interesse. Beh, adesso vediamo, insomma. Sì. Ecco. E un altro problema. Ci sono domande che un questionario, un visitatore fa. In un ideale questionario ci sono certe domande, no? Specialmente nei questionari estrapolati, che però non vengono praticate sempre in tutte le parrocchie. Allora, se noi diamo nel questionario la indicazione c'è questa domanda, l'utilizzatore può essere tratto in inganno, dice ah, questa è una visita che mi serve perché risponde a questa domanda qui, poi però quella domanda lì risponde in 10 parrocchie su 350, ma non perché nelle 350 non ci sia quel fenomeno, semplicemente perché non lo si chiede. Allora mi chiedo se non si debba pensare anche a come segnalare le domande che non vengono fatte sempre, ecco. Perché questo può essere un momento in cui l'utilizzatore viene ingannato. Infine, ultima cosa, sempre tra quelle emerse oggi, poi ne ho altre ma ne discuteremo domani, la dottoressa Nuvola, che parlava di Trento, della visita di Trento, diceva ma nei documenti annessi ci sono informazioni importanti che magari non ci sono nel questionario. Facciamo un esempio che riguarda una visita a Pavese. Ecco, in una visita a Pavese non si chiede mai se, per esempio, il parroco, il prete insegna, fa scuola o se ci sono maestri di scuola. Allora io nella domanda del questionario, se si chiede qualche cosa dalla scuola, devo dire di no. Poi però nei documenti preparatori, lettere che la gente manda al vescovo, ogni tanto la gente si lamenta perché il prete non fa scuola mentre dovrebbe farla, oppure perché il maestro di scuola persegue i ragazzi perché è un pederasta. Ecco. Allora, nei documenti annessi emergono informazioni sulla scuola, ma nel questionario no. Però che senso ha indicare che in alcuni elementi annessi emergono, in alcuni documenti annessi emergono domande sulla scuola? Ecco, cioè far rientrare i documenti nel questionario vero e proprio mi sembra strano, ecco, mi sembra anche qui fuorviante per l'utilizzatore. Possiamo pensare anche a questo tema. Grazie. Beh, c'è la professoressa Russo. Ah, domani. Che si prenota per domani. Beh, a questo punto abbiamo lavorato bene. Andiamo a. rinfrescarci un poco e poi dopo ci troviamo. Ecco, domani magari cerchiamo di anticipare la discussione finale già alle 10:30, contando che i tre interventi in un'ora e mezzo dovremmo risolvere. Sì. E quindi anticipiamo di mezz'ora la discussione perché abbiamo bisogno di parecchio tempo.